E questa come ti sembra di modulazione, Antonè? Oh, anzi 9.10 di portata fissa e quasi 9.20 di picco. Va bene, già sta girando bene qua, sto usando 2 watt, lì, 2 watt tondi tondi. Sì, sta scendo bene, allora diceva che sei perfetto, sei perfetto. 6, 9.10 a picchi 9.20, cazzo. Eia, arriva così, 9.10, però che... butta, 9.20 di picco. Positivo, dai, tutto l'olio, aspetta una volta, lì. Eia, lasciami là. Una. Cambio. Ah, si è attaccato a nominare. Cambio. Com'è agganciata? Cambio, cambio. Va bene, Massimiliano, adesso sei di russo. Positivo, dai, tutto l'ossido, KK e KK. Il pomellino ce l'ho a mezzogiorno, eh. Vai tu, pensa tu, va benissimo, sta girando alla perfezione. Antonè, come ti arrivo lì a te? Molto unico, so che mi ti arrivo. Si vede che stai pompando. Va bene che va bene, dai, tutto a posto, tutto regolare, la cosa è bella, dai, tutto giro, cavolo, cavolo. Se 9.25 ton dottore, arrivi a più del baracchino, figurati. Poi dopo lì che c'è il più 30 all'istante. Cioè, c'è il 30, quindi sì, sopra più. Va bene, dai. E guarda adesso io, pompo, cosa dice? Fa, prova. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5, cambio... Lo stesso segnale suo, sì. Vai tu. Maledetto. Invece così, Antonio, cosa dice? Un watt e mezzo, capo, capo. A 9.10. Va bene, Daniele, dimmi tu, chiudo e ce lo butto. Capo Rogero, chiudi tutto. Va bene, Massimiliano. Positivo, dai, tutto Rogero. Cambio. Ok, dai, un watt e mezzo, 18 modulati. Va di lusso, di più mi sale, non si può fare. Aspetta, voglio vedere quanto sale di potenziometro, aspetta, eh. Cappa. Va bene. Pomellino, mezzogiorno, 8 watt, capo. 22 modulati a mezzogiorno, eh. Scrivitelo, Daniele. Capo Rogero, adesso me lo segno, Massimiliano. Mi hai detto 8 watt e 22 modulati? Allora, col pomellino a mezzogiorno, le volte ciaspe. 8 watt, 22 modulati. Cava, cava. Va bene, va bene. Ora. Ora. Allora, chiudiamo qua. Allora, Daniele, con il pomellino alle ore 9. Ora. Una ventina, 22 secondo come ci parli. Di lusso, perché si andava a aumentare il watt, poi lei quando andava tipo metallico faceva ripetizione. Vabbè, io l'ho chiuso, aspetta che lo provo a aprire, con qualcosa però, con il watt a manetta. Cappa, ha iniziato a andare bene dagli 8 watt. Allora, vedi un po', i watt sono al massimo, il pomellino dell'eco è a mezzogiorno, cambio... Adesso sembrava bene. Prima non so cosa sembrava, qualche ripetizione tipo fena metallica, capito? Cosa l'hai fatto quasi? Allora, da questo passaggio con il fatto al massimo, Cambio, cambio. E sta girando bene, lo sento. Capo Roger, confermo. Con i fatti tutti chiusi, la radio aumenta e l'eco gira sempre bene, cambio. Ehi, a voglia. va bene, oh no, pompo, ci buttiamo tutto. Allora, chiudo la radio, metto i bulloni qua e metto la saldatura, non aprirla più, Capa Rogero, va bene, io non l'ho mai regolata lì, solo oggi l'ho appena regolata, ma giusto a vedere cosa diceva. Sì, vabbè, ce l'ho toccato un'altra cosettina, va. Aspetta, ok, vediamo un po', aspetta, sto fischiando, tanto, un attimo, Con un watt e mezzo, tutta chiusa, con così e con 4 watt. Non riesco a... con questo apparato non riesco a vedere, perché tanto vai oltre il 9, 9, 10, quindi poi non riesco a stabilire proprio se aumenti o meno. Guarda Tino, così sono con i watt tutti al massimo, c'ha 9 watt e intorno ai 24 modulati. Buono. Diciamo che sì, nel più del tutto, per farti capire com'è questo qua. Prova tu, Giordi, metterne a uno. Uno e mezzo, Tino, gliel'ho fatta così, non l'ho voluta uno. Uno e mezzo di portante intorno ai 18-20 modulati. Va bene, sì, sul più spaccato del Galaxy tutto. Quindi se aumenti, se fai, sei con picchi positivi, leggeri e giri, però ci sono. Però lasciandola con un watt e mezzo così la radio è molto più forte, giusto? Capo positivo, è più forte sì. Ok, Rubrofè, cosa dici? La lascio così o la metto sotto le ruote della macchina? Puntella. Se me ne dati sì. È quello da vedere, Sono più come quando eravamo giovani, Davvero, Allora, aspetta, faccio una cosa. Oh, guarda così, come la senti ti, va bene? Ma sembra che non abbia cambiato, prova, ero distratto dal PC, prova. Così è agganciata, vedi un po'? Adesso sì, un pochino, sì al 30, ma non so se va oltre questa lancetta, hai capito? Quindi non ti dovrei ascoltare con l'altra. La radio è rimasta sempre buona, anzi forse è migliorato anche. Sono sicuro che ha migliorato. Oh Gianni, da te come ha fatto? Ha migliorato? Ottimo e abbondante. Va bene, là, sono contento, là. Ti lavoro, 150 euro la sto vendendo. Già lo sai, sì. Non ho fatto più portate perché ormai ce l'ho. Ti la diritta a poi, 150. Vabbè. E comunque quell'altro non si è abbassato e vabbè, già sarà piena. Comunque questa qui è la verità, questa qui per quella cifra si può dare così, Ti faccio una foto e te la mando, manda. E poi tenere una e fare la stessa cosa a questa. Tanto, il 48 già mi piace come va. Antone. Sto uscendo una cacca. Oh ragazzi, adesso vado a mangiare un po' di pappa là. Se in caso riprendo dopo, ok, Tino te l'ho mandata la foto, poi gliela tiro anche a Gianni Profeta, sennò cazzo si piscia, si cocca, chissà. Eia, bella, sì, già va bene. Dai, già c'era il suo valore, perché adesso è messo a posto, regolazione di watt, regolazione d'eco, 45, vabbè, c'è 120, è una bella radiolina, là. Va bene, dai, ciao Tino, ciao Pomponio e ciao Gianni Profeta e chi fosse in ascolto, Vado a mangiare la pappa, se in caso lo riprendo dopo, ciao ciao. Eia, ciao. Eia, ciao ciao. Adesso già vai meglio, Antonio. Sono posso averlo adesso, io lo credo. Cappa. Sono appena doppiazzato ieri. Ciao Massimiliano, entro a gamba stesa. Ciao Massimiliano, buona cena. Ciao Antonello. Eia, saluto anche a te. Io ho visto l'antenna che ho installato. No, ancora, perché non sono passato da quelle parti. Su Facebook l'ho messa ieri. Ho installato l'antenna 12.20 per il wifi. Ma non l'ho vista. Guarda, le foto l'ho messa ieri sera, l'ho messa verso le 9.30, una cosa del genere. L'ho comprata ieri sera, l'ho comprata, e l'ho installata ieri notte. È una bomba, tra i tutto i bili guadagno. C'è un segnale di filo per casa, sembra che sono dentro quel negozio. Ah, aspetta, ne avevo una anche Luca, cioè la puntata, non so se ho capito. Si chiama antenna Land, si chiama. Scusa, va installata con la pennetta, no? Land lo stesso. Tu di lo stiletto, infatti con la pennetta si mette a cacciare il computer per il wifi. Io ho preso e l'ho comprata, ho preso 10 metri di cavo e lui è stata ieri sera, cazzo, una bomba, ragazzi. Però, tutto bene, ma chiaro, chiaro, chiaro, perfetto, non c'è nessun disturbo, nulla. Beh, non posso, immaginare. Andare. Devo comprarmi il router, ma non lo compro adesso, lo compro il mese prossimo. Mi compro il router, una volta che aggancio l'antenna al router, in pratica ci vanno un altro antenino agganciato al router, in pratica qui farà da ponte, capito? Ponte ripetitore, quindi in pratica se hai wifi ce l'ho anche dentro a casa. Posso agganciarmi internamente allo smart TV e mi guardo la TV via internet senza pagare nulla, né abbonamento né un tubo. Posso fare le videochiamate su Messenger e quindi gioco tranquillo. Già va bene. No, io non mi interessa perché già va bene. Per lo meno qua la linea c'è, ma sono stato un pochino più forte, è meglio, però siccome tutti quanti stanno allacciando adesso la fibra, sta migliorando la DSL, hai capito? Già lo so, questo di fronte c'è una fibra, infatti, hai capito? Ecco perché c'ho segnale a manettone, si vede tutti, quando metto qualche film in HD si vede chiaro, ma veramente è bello, hai capito? Questo l'ho provato ieri. Una pennetta da 20 euro, di quella che vende la GBC, poi appena c'è il router le cose cambiano, è tutta un'altra cosa. Devo solamente guardare un po' di qualche negozio cinese se c'è quel tipo di router. Una volta che c'è me lo prendo. Di momento va bene così. Va bene, dai che mi preparo qualcosina anche io per stanotte, per fuori anche per domani, così almeno siamo a posto, che c'è una cosa. Va bene Antonio, dai. Cava, avanti, dubbio pezzo. Ega, ma Antonio, vabbè, curiosità, se me lo puoi dire, ma ti sei agganciato ad una rete libera aperta, giusto? Esatto, sì. Mi sembra o da qualche parte su Amazon quelle piccole antenne direttive per 2-4 gigahertz. Esatto, sì. Cazzo, l'ho pagato a 20 euro i cinesi. Ciao Marco, come hai sentito? 20 euro più il cavo, ho pagato 30 e qualche cosa. Cosa più il cavo gli è l'antenna? Vabbè, 58 è il cavo. Quindi, l'unica cosa che c'ha gli attacchi che sono dolati, già lo sai, no? È un casino questo a fare uno stirato del genere. Perfetto, comprano già pronto. Ah, quindi gli spinotti non li hai cablati, era già tutto così. Infatti volevo chiederti proprio per gli spinotti se avevo avuto problemi. No, erano già cablati, no. C'è dalla... mi sembra 10 euro invece per operato il cavo, non mi ricordo, 9 euro, 10 euro, 10 metri. Invece quando la 30 metri viene 14, 30 metri di cavo, ma mettere 3 metri di cavo non mi interessa, capito? Perché l'aggancio sotto la mantova e quindi, e poi entro in salone, capito? Con il capetto. Stai con l'antenna logaritmica che ho quella per la TV, io non ne faccio niente, quella verticale. E ci piazzo quella del coso, quella di 38 dB, è una bomba, almeno a due punti prendi, se c'è una scuola vedi le poste, per dire se lo punto di affollamento ci vuole fare le poste che arrivano sino a fuori, quindi sono tranquillo. Poi c'è una rete di via Carlo Felice, mi devono dare i codici adesso, questa settimana, il codice interno, perché prima era un wifi, era aperto, poi bastardi hanno messo il codice, capito? Adesso mi devono dare il codice, non faccio altro che puntarla di qui, forse proprio da un'altra parte, se vuole la quinta. Ho capito. Ascolta, in linea d'aria più o meno, da dove sei tu al punto di trasmissione, quanti metri saranno? Saranno come ti posso dire, esci di casa e passo di sotto, c'erano 30 metri, 40 metri, nemmeno. Ah, cappa. dai. No, immaginavo che fosse appena più lungo, ma penso che già ce la fa agganciare. Adesso non so il segnale a quante tacche ti arriva con quell'antenna lì. 5 tacche. Perfetto. E allora quindi anche se aumenta la distanza, magari sono sicuro che il segnale ti arriva bene lo stesso, dai. Sto usando una pennetta, non è che sto usando il router, quindi se attacco il router la questione cambia, mi farà ripetitore interno, capito? Che l'attacco delle si può agganciare al router, capito? Ci vuole un router con due, da una parte vedete c'è un antennino e dall'altra ci devi agganciare l'ingresso dell'antenna esterna, capito? E poi all'interno in pratica dell'appartamento è come se ci avessi un coso normale. In qualsiasi zona che vai dell'appartamento ricevi, capito? Sì, già la conosco più o meno quel tipo di configurazione, ho visto qualcosa. Senti un po', ma questo super negozio cinese è attrezzato di roba del genere, dov'è questo negozio? Guarda, c'è proprio da sbagliare, è Eurasia, è proprio di fronte a Cittamercato, ma di fronte. Visto dove ci sono, dove vai a lavarti la macchina dietro a Cittamercato, attaccato proprio all'autolavaggio. KK, sì, adesso ho capito. Adesso ce l'ho presente, sì. Perché immaginavo, cioè non tutti i negozi cinesi hanno materiale del genere. Ci hanno portato i Baofeng, gli 888, cioè il singolo c'è la coppia. Poi ci hanno un'altra marca, non so se di qualcosa, e poi addirittura c'hanno i Baofeng che fa V e fa anche U. 16 canali, già impostato. Però non so che frequenza sia, che non l'ho mai preso quelli. Allora, il prezzo è a 19 euro singolo, adesso non mi ricordo se è 40 o 44 blu, la coppia. Senti, Simona, senti buttato. Ho capito, dai, comunque già c'ha roba carina allora, dai. Appena mi viene bene ci faccio un salto a curiosare. Interessante, dai, grazie per la dritta. Vedete, il Baofeng di 888 già non sa fare male. Se lo fa impostare, ti fai mettere i canali PMR e l'IPD si è a posto. Sì, quei Baofeng li conosco, quelli in offerta, ne avevo preso per la campagna, ne avevo preso 5 su eBay in offerta con il caricabatterie, 50 euro. Ah, ma quale hai pigliato? Uno 5 dei più plus? Boh, non mi ricordo adesso il modello qual era, c'era un'offerta su eBay di Baofeng PMR, avevano, non mi ricordo se 12 canali, forse avevano 12 canali, c'avevano anche la funzione con la piletta, e poi dentro la scatola c'era anche, vabbè, a parte il caricabatterie da base, tipo il cellulare, aveva anche l'auricolare col microfono. Ok, il Baofeng è 888, 16 canali, no 12, 16 sono. Già sono quelli, capito, c'è la scatola con scritto Baofeng 888 in rosso, già ho capito quali hai preso. Se ne hai pigliato 5 si è andato bene, ma qui dicevo uno. Sì, li abbiamo presi un paio di anni fa, c'era l'offerta sui bici, ma c'è ancora a me. Addirittura ci sono alcuni siti che vendono, fanno la formula, no? Quello singolo, 2, 3, 4, 5, addirittura 10, gli 888. Quindi c'è l'offerta, se li pigli in blocco anche 10. No, li ho provati, li usavamo in campagna per lavorare, insomma. Erano carini, poi la batteria praticamente caricata bene durava una vita. Già lo so, io ce li ho avuti anch'io, li avevo venduti, perché ne avevo 4, usavo le faccia con i 4, poi troppi erano, cioè li uso solo due io per fare impianti d'antenna, li uso gli UV5 dei più plus che hanno i display digitali e 100 memorie, capito? Ehi, aspetta che sto leggendo un messaggio al telefono. Ehi, avanti, abusivo, riprendi. Marco sta mangiando. Oh, ciao a tutti, ciao parenti, ciao visite, dai, non posso parlare, ciao, ciao. Sì, certo, se c'è parenti sono già PM. Quello che svuotano l'armadio. Ciu. Ok, stavo leggendo un messaggio al telefono. Comunque sono riuscito alla fine a mettere il microfono, Antonio. Ci voleva molto a farlo, con te sei per prima. Sì, vabbè, ho piano piano ho aperto lo spinotto del microfono originale, poi col tester, insomma, mi sono arrangiato, ho trovato praticamente l'inghippo e niente, adesso ci ho attaccato è a metà volume dal microfono. Sì, si uscendo bene, sei perfetto, c'è una bella radio, perfetta. Bene, bene, dai, alla fine ce l'abbiamo fatta, al terzo tentativo, dai, ho fatto, sì, vabbè, diciamo che il primo non era un tentativo intero, dai, comunque, chiamiamoli tre tentativi, al terzo ce l'ho fatta. Meno male, meno male. Come non ti sei comprato il microfono amplificato da tavolo, come... a questo ricordo, quanto l'hai pagato? No, questo me l'ha dato Bulldozer, il microfono, questo palmare, ce l'aveva e non lo utilizzavo più e me l'ha dato e niente, lo usavo prima con l'altra mia radio, 40 canali, poi ho fatto la modifica per questo e niente, continuo a usare questo, no, preferisco il microfono da palmo, quello da tavolo non mi piace. Ah, capito. Con questa fretta, no? Ah, beh, ricordi che sia... funzionando bene, poi il resto. Sì, già va, infatti certo a livello di impugnatura non è comodo come magari il suo originale, perché è squadrato, è come un pacchetto di sigaretti, quindi a livello ergonomico non è il massimo, però già si fa sentire, dai, già va bene, quindi non si butta via niente, anzi, tanto di guadagnato. Quello sia voglia. Io così sono contento che sta funzionando bene con la parecchia. Sì, anche la radio si sta comportando bene. Quello che già fa il suo dovere, dai. Voglia che c'è bene una radio. È un bisciù. Siamo la popolazione, come altri, non bassi, ma già va bene. Sì, e quella è la caratteristica di questi microfoni, che tendono magari più sui medio-alti, mentre il dinamico tende più a dare un suono più corposo sui bassi. No, ci ho pensato sulle felici, sulle felici, sull'FM500S ci ho messo le felici, e ci ha volato la cuppa, ma non me la frega niente, è tanto che è un macchino che uso di riserva, questo, capito? L'ho sistemato, anzi sistemato, modificato dentro tutto, ho messo 24 tubi e 34 canali sotto, adesso devo prendere, siccome c'è una schedina, prendo il 4 di quella schedina, li metto i canali alti e così ho altri 35 canali sopra, capito? Ho capito, sì. Nella radio che stai usando adesso? No, questa è 200 su canali, l'altra è a 34, ne avevo a 34, presa senza, ma poi gli ho spaccato il, come si chiama, con la pizza, e arrivava sino a 34. Una volta che prendi nella manopola con la pinza, fai appena leva, ci segna tra 5, tra 6, tra 7, 38 e c'hai il, vabbè, quello intanto che ti risulta 1, 1, 2, 2, come canale normale. Dopodiché però il 40 ce l'hai, perché te lo segna. Ho capito. ho capito, dai. Quindi Marcolino, c'è gente in casa e non può entrare, dai, vabbè. Se avrà la radio accesa bassa. Sì, senz'altro. Uno che è peloso è cazzo. Solo al mare, a cosa solo, la pulita, mal di ginocchio, mal di gambe e mal di reni, la sera. Come cambia il tempo a me mi piove il mal di bocca. Un ferro vecchio, dai. Sì, infatti non ci siamo su. Stavolta è venuto Marco a Faroma e mi ha detto, dice, ci vieni a settembre a piazzarmi la terra banca, e ho detto, fa una cosa, alza due la sua, gli ho detto che ho 56 anni che non avevo diritto di rimanere a parte e chiamare i pompieri a farmi scendere. Vabbè, dai. Se poteva lui, meglio farlo fare a lui. Si è più grasso di me lui, io non sono grasso grasso, ma lui è più doppio di me. E siccome sono dove devo salire, una volta mi sono partito a testa a qualcosa per addirittura. Al cemento armato che c'era all'uscita del coso, della cantina, c'era la cantina della mansarda. Questa lì sono partita per fargli la mano qua. Non te ne dico nulla. Non ci salgo più, mi sono fatto così. Basta, hai già venito io. Le mie antenne, salgo solo nel tetto mio, lo conosco bene e viene anche bene a installare le antenne. Nel tetto degli altri non ci salgo più a ammazzarmi io. Vabbè, già un conto che c'era bisogno, ma adesso non mi sembra il caso, dai. Appunto, sono sentato nel tetto di Sassari Vecchio, tu figurati tu. Questa tipa qui mi aveva, nel terrazzino aveva messo il pavimento con la... Posso usare il detersivo, quello normale, usava quello per uscire le mattonelle. Ho messo la scala, sai come si... Mi scivola la scala in terra, io sono andato appeso. Crocro. Non sono cose belle, dai. Ma la scala è scivolata in terra. Io ho preso la tua scala e sono andato appeso nella rondaglia. E così la rondaglia è stata così com'era. La seconda volta mi sono messo un coso in terra, ruvido. Sono salito sul palpetto, mi sono messo la gran pena sopra. Perché abitavo in corso di Vittorio Emanuele, figurati. E avevo fatto scendere i capi e parlavo tranquillamente da lì. Comunque, bevete di palo. L'unica cosa della gran pena a fare dei schifo, zia, perché lo stilo, dopo la giornata che avevo fatto questo, l'ho visto tutto piegato, cazzo. Cazzo, quella altra di alluminio, mi ha detto. Hai beccato quello che ci sta male, dai. Sì, capi di Bertola che non servono a niente, capito? C'è lo stilo quello di sopra che fine, capito? E quindi al primo momento si è piegato. Allora, ho preso la capella, l'ho staccata, ci ho messo una tantera, ci ho messo. Ma le Grand Prix si trovano ancora in commercio? Sì, 50 euro costavano le Grand Prix. Ma come efficienza come sono? Se tu vuoi la gamba è buona, quella come si deve già esce bene, io l'ho avuto una, tanto tempo fa c'era 8 radiali, capito? E ci va benissimo, una bomba ero. Parlavo con la Spagna tutti i giorni, con Bosa, con la zona di... con Villacino addirittura, capito? Non ho più autorimenti, non ho più vista in giro. Boh, io solitamente quelle che mi capitava di vedere erano tipo 4. Questa aveva 8 radiali, c'aveva questa qui. Quindi figurati tu, il radiale rimaneva 80 cm da terra, dal piano del tetto. E usciva benissimo quando abitavo in via del Zitto. L'unica cosa era una cosa allucinante per il TV, a distanza di 200 metri da casa mi sentivano i televisori. immagino. Vabbè. Chiaro che in recessione un'antenna del genere già performata, là. E io ci va bene, la metà ci va bene. Parlavo con Villacino, tu figurati. Santiago 5 a Villacino arrivavo, con 100 watt agganciati, come buccia un 31. Ah, ecco, quindi cioè chiaramente dovevi agganciarti qualcosa, perché sennò arrivare lì mi sembra che arrivare lì liscio non era, insomma, non ci riuscivi chiaramente. Esatto, esatto. L'unico che ci arrivava superava il nome era Walter e poi chi c'era? Claudio, Angelo Delfino e cosa addirittura? Gianni di Lunesole. che ci va con male, con il vaccino. Tutti gli altri erano negati. Certo, capisco. Vabbè. Ma questo anche senza propagazione? Senza propagazione, sì. Ho capito. Vabbè. Sono buoni risultati comunque. Mi scappa il capo del coso, allucinante mi sta scordando. Il capo dell'alimentazione. Fuori di testa. Da quanto pompa barchino. Non ti ho capito, cosa è successo? Che c'è il cavolo di alimentazione di questo barattino qui che sta scaldando, perché è fine, capito? Siccome la parecchio pompa 28 e passa a watt. Si sta surriscaldando il cavo, adesso ho capito. Ormai lo cambio, ho toccato adesso il portafusibile, contenti. Figurati, anche il cavetto, perché sono manica di watt. Ah, quindi stai uscendo con un 20 adesso? Sì, quasi 28 sono. Se posso sapere che radio è? Alla 87. Ah, ho capito, ok. Bene, meda. Qual è? Quello marrone? No, nero è, frattarino nero, non è marrone. Ah, ok, allora sto confondendo con qualche altro apparecchio tipo Intec o roba del genere. Ma non l'ho mai visto io comunque. Ciao, esatto. Tu c'è un po' per questa baracchina qua. Ce lo stavo buttando, me l'avevo dato per te. Invece ho preso, l'ho riparato piano piano e funziona benissimo. Allora, dovrebbe essere quello che stava provando Daniele stasera, se non sbaglio. No, non so se sarà l'87 Daniele, questo è 200 stato canali. Figurati, c'ha le bande laterali, c'ha. Allora, non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, sto facendo casino io. È la Midland, basta che guardi sul coso, sul computer, Midland, Alan 87. Mi sono confuso io. C'è anche letto in dotazione, ma non ho molto capito questo senza scheda ecco. Non c'è il pulsantino. Ho capito. Ho sbagliato io, che ho giubilato un cazzo per fascio di treno, dai. Allora, già sei vicino alla stazione tanto, quindi. Anche se stanno fischiando di meno adesso, dai. Tanto la città già lo conosci, penso di sì. C'è il circolo lì attaccato a questo picco. Mi ricordi il nome? Dove è Sagittario? Non ce l'ho presente, io vabbè sono più... Mi ricordo molto più le facce che i nomi. I nomi, ogni andate me li dimenticheggio. Magari, probabilmente se lo vedo lo riconosco. C'è il circolo di fronte alla, come si chiama, l'edicola, la via, come si chiama, via via delle, non via delle muraglie, via muraglia mi pare, una cosa del genere. Mi sembra di non conoscerlo, ti ripeto, poi magari se lo vedo magari di vista ci conosciamo. Senz'altro se lo vedo, è così, sì. Capito. Bene, vado a girarmi una sigaretta, vai. Fuma. Purtroppo sì, dai. 5 euro al giorno, cazzo, ma un barattino c'è, ragazzi. Ogni settimana. Oia, eccomi. Pomponio va e viene. Ciao Marco. Pomponio è tra una bionda e l'altra, in lattina. Ci hanno graziato, dai. Mi sembrava anche ora. Ciao Giada. Sentiremo oggi giornata disastrosa a livello salute, lasciamo stare. Dai, già ti ripigli, dai, sono sicuro che già ti ripigli, dai. Capita ogni tanto di salire sulle montagne russe, quindi già non so cosa vuol dire, dai. Infatti sono uscito solo per dovere, perché devo pigliare ricette e medicine per mamma, però mi devo tenere su a caffè, a Red Bull, mi devo dopare praticamente, dai, già sentiremo. Ciao Antonello, sei rientrato, eccetera eccetera, dai. Ah, stai staccando? Sì, mi devo fare pure l'iniezione adesso. Non vedo l'ora che passi questa, con questo autoiniettore mi. Che palle. Ho capito, lo so che è una rottura di palle. Cazzo, allora. Via, stringere i denti, lo so che sembra una frase fatta, però insomma. Sembra retorico, però è così. Non solo i denti. Lo so. Peccato che, vabbè, se no ti avrei fatto sentire a tempo debito, però ti avrei fatto sentire il 5005. Allora, quello ha la ricezione più bilanciata in assoluto come timbrica. Quello penso che sia la perfezione come timbrica di ricezione. Capito? Né troppo acuto, né troppo... Però, come dico io, vabbè, de gustibus. È troppo digitale, dai. Beh, ti dirò, quello ha già le manopole tipo questo, più però menu vari, sottomenu. Ma una volta che ci abitui, però brutta quella cosa di cui ti parlai l'altro giorno. Quella storia che ti scombina i canali quando in SSB muovi il clarifier e poi cambi canale. Quella è una grave pecca. Avrebbero dovuto fare un sistema per cui i canali, una volta programmati, ritornavano automaticamente centrati. E quella è una grave pecca, grave, ma vabbè. K, ma stai sempre parlando del 5005, sì? Sì, sì, 5005, 7009, 9009. Stessa minestra. Mai sentito di canali programmati che poi se ne vanno per conto loro o se muovi il clarifier? No, non esiste. Ah, questi livelli, pensavo fosse, tra virgolette, un difetto, chiamiamolo difetto minore, dai. Qualcuno lo vede come un vantaggio. Cioè, se tu imposti un canale col clarifier in un modo, poi vai in un altro, quando ritorni su quel canale te lo trovi come l'avevi già impostato. Qualcuno lo può vedere come un pregio, io no, mi dispiace. Adesso hai reso bene l'idea, sì, adesso mi sono fatto un'idea più chiara. Di bello, quegli apparati hanno due decimali dopo il kilohertz, cioè puoi muoverti di 100 Hz e anche di 10 Hz e puoi scegliere se farlo in ricezione solo o solo trasmissione o trasmissione e ricezione simultaneamente. Versatile quanto vuoi, però vecchia guardia, c'è vecchia scuola, lo preferisco, dai. Ho capito, comunque rispetto agli altri due ritieni che quello sia il migliore, giusto? Come timbrica di ricezione. Guarda, quando uno esce bene di radio effetto presenza, lì lo senti un bijou. Certo. Sì, vabbè, adesso mi sto facendo l'orecchio a questa, che ha un suono, attretto, un suono diverso dalla mia radiolina. Adesso, bene o male, col passare dei giorni mi ci sto abituando, anche sentendo gli altri, quindi involontariamente mi viene a fare delle comparazioni rispetto a come li ascoltavo prima. E niente, quindi mi sto abituando a questo sound. Sì. Veramente è un peccato per l'FM, per come esce in FM quello è un peccato, però tutto si può migliorare, bisogna avere la strumentazione. È quasi imperdonabile, però, quello, caspita. Però caspita che di fabbrica, ho detto, li smercino così, non è giusto, anche perché non costa 50 euro, no, già lo sai. E uno quando lo compra deve richiedere un minimo di taratura, no? Invece così è. D'altronde roba made in Cina e non è roba made in Japan, perché i vecchi erano tutti fatti in Giappone, anni 70-80, o era roba americana o era giapponese, da lì non ci usciva. Sì, sì, infatti quella Sashi è roba giapponese. E magari Marco, guarda, è veramente, sicuramente sarà una scemenza, sarà una stupidaggine, cioè roba di, veramente di, sicuramente da fargli un leggero ritocco, perché perlomeno penso che sia così, non è niente di gravissimo, solamente è un discorso di un leggero fuorialineamento. Sì, poi la mia teoria è, siccome c'è un trimmer per la deviazione FM in trasmissione, no? Sì, è stato aumentato un po', ma non assai. Quindi presumo, a meno che non sia partito qualche filtro, qualche filtraggio in trasmissione, si può riportare indietro e chiudergli l'emissione. Ok. Vabbè, Antonello, se non rientra Antonello, chiudo, dai. Ok. Già tardi, devo recuperare sonno stanotte. Ciao Gianni, ciao Antonello, sia l'ascolto e tutti gli ascoltoni, dai. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao Fra. E se solito a spegnere tutto, vedo, facciamo in voce. Ci sentiamo alle prossime, dai. Buonanotte. Ehi, cosa stai usando adesso, Fra? Il Lincoln con l'Ecomaster. Non è male, non è niente male. L'Ecomaster è, poi è di quei microfoni che esce bene. L'autopomponio è molto molto limpido. L'Ecomaster e lo Shure. Sì, ok, va bene, ciao a tutti, buona. E ciao Gianni, ciao, buonanotte. Buonanotte a todos, ciao Marco, ciao Tino, dai. Si sente all'improvviso come sempre, dai, ok, buona serata. Tino c'era, ciao Tino.